Smokers, karma, stay up and smoke a peaceful time, relax it with a blunt, blunt, baby, for a karma just chase back. For a karma justice to don't kill my work, mondo fumo digitale, justice brow, my brow, mondo fumo digitale. Karma allo stato vero, karma allo stato puro, il vero torto, il vero perdono. Karma allo stato vero, karma allo stato puro, il torto subito porta a felicità il futuro. Karma allo stato vero, spirito allo stato brado, e l'inganno ripagato, il fango ripulito. Karma allo stato vero, karma allo stato puro, in cerca della vera lacrima di redenzione alla mia anima. Karma allo stato vero, karma allo stato puro, mamma, chiedo redenzione, mamma, ed un ricordo da non rimpiangere. Padre, chiedo lo stesso, un ricordo da non rimpiangere. Karma allo stato vero, karma allo stato puro, il mio demone nel vento col quale danzo sta diventando troppo morale, tabù da smontare. Dopo me tabù da smontare. Karma allo stato vero, karma allo stato puro, congiunzione alchemica, particella di luce perpetua, particella di Dio, energia eterna libera, creazione, congiunzione con Dio, energia elettromagnetica. Beh. Apologia di mondo, giudizio universale del fango, mentre fumo la mia vita ormai onda nella musica teleschermo, dal quale vedo immagini 2.0, inconscio digitale, coscienza da armonizzare ai veleni del mondo, e il mondo ha il sapore di un mondo in fumo 2.0, anima digitale. Sembra mondo fumo digitale, anima 2.0, sinestesia digitale, tra musica, tecnologia, arte, sesso, amore, inconscio, mondo fumo digitale, particella. Particella per la pace nel mondo, origine del sole. Mondo che manda, mondo fumo subliminale digitale, onda dopaminica del mare. So dentro a un mondo di fumo. Justice brow, my brow, mondo fumo digitale, mondo fumo digitale. You can't condemn me to live with